Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Amisnet. Ogni giorno 1 milione di lavoratori americani non si presentano al lavoro. Alcuni sono in malattie o in ferie, ma molti semplicemente non ne hanno voglia. Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina di attenzione uguale produzione. Buon lavoro. Saluto a tutte e tutti dalla redazione di Mediaset. Chiudiamo oggi il ciclo di 2 puntate sul tempo di lavoro e tempo libero dal lavoro. Nella scorsa puntata abbiamo esaminato un saggio di Riccardo Antunes, Addio al lavoro, metamorfosi del mondo del lavoro nell'età della globalizzazione. E abbiamo parlato esaminando un articolo comparso sul Manifesto il 13 marzo su come ancora oggi si inventino dispositivi che permettono di spiare lo stato emotivo di tutti i dipendenti. Andiamo oggi invece a vedere che cosa ne pensa del futuro del lavoro, fatica e ozio nella società post-industriale, un saggio di Domenico De Masi. E analizzeremo questi saggi con qualche aforisma che abbiamo trovato su sabotaggio negli USA, storie di estraneità, rifiuto del lavoro, autodifesa e vendetta. In studio alla voce Cristiano e Andrea in regia. Il fatto che l'assenteismo sia oggi in aumento non deve portarci a dimenticare che si tratta di una pratica antica e consolidata. Nel secolo scorso era molto diffuso l'assenteismo dopo i giorni di festa e nel periodo del raccolto. Per ironia della sorte, il XX secolo, il secolo del lavoro, così si apre il capitolo 18, intitolato appunto Lavorare meno, del saggio di Domenico De Masi. Appunto il secolo del lavoro, il XX, si è concluso con la sua carenza, ossia con la carenza del lavoro. Sono sempre più le persone che cercano lavoro e non lo trovano. Molti, per disperazione, hanno addirittura smesso di cercarlo e per questo sono considerati fannulloni. stata a chiedersi che succede quando, per dirla con Hannah Arendt, alla società del lavoro il lavoro viene meno. Una disoccupazione di nuovo genere attanaglia tutti i paesi ricchi, i quali ancora una volta affrontano il problema di natura post-industriale con metodi e strumenti industriali. Alcuni di essi truccano le statistiche o, approfittando di congiunture favorevoli, ostentano cifre tranquillizzanti per se stessi. Ma il problema, a livello planetario, resta irriducibile alle soluzioni tradizionali. Qual è il punto secondo De Masi? Che appunto i responsabili dell'organizzazione produttiva, presi dall'euforia mercantile, invece di sfruttare le innovazioni tecnologiche per produrre i medesimi beni in meno tempo, hanno preferito produrre sempre più beni nel medesimo tempo, alimentando, oltre al necessario progresso, anche una spirale di consumi velleitari destinata comunque a infrangersi prima o poi contro la saturazione del mercato. In effetti, la riduzione di orario che tutti gli organizzatori messi insieme hanno voluto nel corso dell'intero Novecento è appena pari a quella che Taylor introdusse in pochi mesi alla fine dell'Ottocento. Eppure il tempo necessario per la produzione di beni è diminuito così velocemente che ogni anno le grandi industrie riducono del 3% il proprio personale. And the mummy. As you wish, master. Se per la teoria keynesiana nel giro di pochissimi anni, intendeva dire nell'arco della nostra vita, potremmo, questo lo diceva stesso Keynes, potremmo essere in grado di compiere tutte le operazioni dei settori agricolo, minerario, manufatturiero con un quarto dell'energia umana che eravamo abituati a impegnarvi. La disoccupazione, dovuta alla scoperta di strumenti economizzatori di manodopera, procede con ritmo più rapido di quello con cui riusciamo a trovare nuovi impieghi per la stessa manodopera, ma questa è solo una fase di squilibrio transitoria. Vista in prospettiva, infatti, ciò significa che l'umanità sta procedendo alla soluzione del suo problema economico. Sarà un bene, si chiede lo stesso? Se crediamo un poco nei valori della vita, si apre perlomeno una possibilità che tutto ciò diventi un bene. Secondo lo stesso Keynes, occorre sostituire la perizia nel lavoro con la perizia nella vita attraverso tre tappe che individua appunto nella prima, una tappa di natura organizzativa durante la quale il lavoro diminuirà drasticamente senza ancora scomparire del tutto. Occorrerà poi ridistribuirne i residui in modo che ognuno possa essere occupato sia pure per un tempo minimo. Scimpanzé, zoo di Stoccolma. Scimpanzé crede davvero di essere un uomo. Ingegnere. Povera bestia. Qual è la ricetta proposta? Appunto, turni di 3 ore e settimana lavorativa di 15 ore possono tenere a bada il problema per un buon periodo di tempo. 3 ore di lavoro al giorno, infatti, sono più che sufficienti per soddisfare il vecchio Adamo che è in ciascuno di noi. Seconda tappa di natura culturale, preparata fin da subito, per la prima volta dalla sua creazione l'uomo si troverà di fronte al suo vero costante problema: come impiegare il tempo libero che la scienza e l'interesse composto gli avranno guadagnato per vivere bene, piacevolmente e con saggezza. Terza tappa di natura etica, la mutazione del codice morale si sommerà alla mutazione organizzativa e a quella culturale, ossia quando l'accumulazione di ricchezza non avrà più un significato sociale importante, ossia il significato che gli diamo oggi, interverranno profondi mutamenti nel codice morale. L'amore per il denaro come possesso e distinto dall'amore per il denaro come mezzo per godere i piaceri della vita sarà evidentemente riconosciuto per quello che è: una passione morbosa, un po' ripugnante, una di quelle propensioni a metà criminali, a metà patologiche, che di solito si consegnano con un brivido allo specialista di malattie mentali. Anche Gorze, che troviamo sempre nello stesso saggio di De Masi, che cosa dice? Due anni dopo, nel 79, appunto sul Nouvel Observateur, Gorze rincarrella la dose per la disaffezione, dice lo stesso, che provoca nei riguardi di una vita di lavoro sempre più precaria e vuota di senso. La disoccupazione diventa alla fine una fonte di rischio per l'ordine stabilito. Si vedono allora i sostenitori di quest'ordine reclamare a gran voce la creazione di posti di lavoro come un fine a sé, indipendentemente dagli obiettivi reali, che si tratti di armi, apparecchiature di superlusso, oggettini insignificanti o apparecchi per il trattamento di scorie radioattive, tutto va bene, purché sia destinato a creare occupazione. Non si tratta più di lavorare per produrre, ma di produrre per lavorare. Che si pone attualmente è questa: la terza rivoluzione industriale condurrà alla società della disoccupazione o a quella del tempo libero? Libererà gli uomini dai lavori alienati o li alienerà ancora di più con l'inattività forzata? Porterà a una nuova età dell'oro in cui si lavorerà sempre meno pur disponendo di una massa crescente di ricchezze, o finirà per condannare alcuni alla disoccupazione e altri all'improduttività? Questa è la domanda che si pone. Risposta vorrebbe sentire. Quale sarebbe quella giusta? Anni successivi, quindi al 79, oltre a testimoniare la lungimiranza di Gorze, dimostrano che i paesi ricchi hanno scelleratamente optato per questa seconda ipotesi. La crescente disoccupazione è considerata non già come premessa di una gioiosa liberazione del lavoro, ma come spauracchio per tenere disciplinati i lavoratori. Perché l'ordine attuale non sia minato alle sue fondamenta, concludeva Gorze, è meglio che queste cose non si sappiano. Si dirà alla gente che il lavoro rischia di mancare, invece di chiarire che non occorre più ammazzarsi di lavoro. Si dirà alla gente che il mostro della disoccupazione incalza, invece di spiegarle come e perché avremo sempre più tempo libero. Si presenteranno le promesse dell'automazione come minacce al posto di lavoro. Si tenterà di aizzare i lavoratori ad azzuffarsi tra loro per i rari posti di lavoro residui, invece di spingerli a lottare insieme per un'altra razionalità economica. La disoccupazione in effetti non è solo una conseguenza della crisi mondiale, è anche un'arma per ristabilire l'obbedienza e la disciplina nelle imprese. Una cosa certa è ormai, siamo tutti potenzialmente in soprannumero. Andiamo a concludere questa puntata esaminando un saggio che altre volte già abbiamo visto, La società astratta, un sistema di indifferenza nella nostra realtà quotidiana, un saggio di Filippo Viola. E appunto in questo saggio c'è un capitolo specifico che riguarda il tempo astratto. Ognuno di noi, dice Viola, ha un suo particolare tempo di vita, una sua specifica cadenza esistenziale. C'è chi ha la tendenza a rincorrere le giornate con frenesia spasmodica e chi invece ama vederle scorrere lentamente. C'è chi reagisce istantaneamente agli stimoli della vita sociale e chi invece ha bisogno di una lunga elaborazione interiore. Ogni persona ha un suo tempo esistenziale. Il tempo esistenziale non scorre secondo le modalità fissate sul quadrante di un orologio. In una situazione di pericolo 5 minuti sono un'eternità. Un'ora con la persona che si ama vola via in un attimo. Non è il tempo la misura dell'esistenza, viceversa è l'esistenza la misura del tempo. La società sottomessa al capitale fa astrazione dal tempo esistenziale ed impone alla collettività un tempo astratto, indifferente alle cadenze interiori proprie di queste o di quell'uomo, di questa o di quella donna. Da qui la necessità di rimodulare continuamente il tempo a misura delle cadenze del processo produttivo. Da qui l'esigenza di fare del tempo dell'esistenza il tempo della produzione. L'asse del tempo viene spostato dall'esistenza alla produzione, continua Viola, e per proteggere il processo di produzione da qualsiasi interferenza esistenziale viene operato uno sdoppiamento del tempo. Da una parte il tempo di lavoro, dall'altra il cosiddetto tempo libero. Per questa via si vuol far passare l'illusione di una specie di pacifica composizione fra esigenze produttive ed esigenze esistenziali. We'll be right back. tempo libero altro non è che il residuo del tempo di lavoro, ciò che resta una volta che si sia conclusa la propria giornata lavorativa. La puntata di oggi si chiude, quindi chiudiamo questo ciclo di due puntate sul tempo di lavoro e tempo libero dal lavoro con questa rilettura del saggio di Filippo Viola, La società astratta. Ricordiamo la nostra mail mediaset@gmail.com e diamo appuntamento a tutte e tutti alla prossima puntata.